Storiacce di Raffaella Calandra. Io sono la mamma di Luigi, ma sono la mamma di tutti questi angeli. A nome di tutte voi e di tutti i papà, affidiamo al Signore questi nostri angeli, gli angeli di San Giuliano. Sono vicini a noi, noi siamo fortunati perché abbiamo il loro volto vicino a noi. E a tutti chiedo una sola cosa, che le nostre scuole siano più sicure. Non voglio assolutamente che nessuna mamma e nessun papà, nessuno pianga più i suoi figli. Ma oggi voi vi sentite tranquilli quando mandate i vostri figli a scuola? 14 anni dopo questa disperata preghiera di una mamma di San Giuliano di Puglia, possiamo dire che qualcosa è davvero cambiato, che le nostre scuole sono più sicure o forse dobbiamo ringraziare la buona sorte e ad essa affidare la vita dei nostri bambini? Purtroppo viene da pensare questo, visto che 14 anni dopo il terremoto di San Giuliano di Puglia, in Molise, quando una scuola si sbriciolò sui suoi studenti, uccidendo 27 bimbi e una maestra, forse solo il destino ha evitato che la sciagura si ripetesse uguale, che nelle 295 vittime del devastante terremoto del centro Italia del 24 agosto non ci fossero anche intere scolaresche, visto che quando la terra ha tremato alle 3:36 di notte, pure l'istituto scolastico di Amatrice è venuto giù. Ma l'Italia tutta è un paese ad alto rischio sismico, così alla vigilia dell'apertura del nuovo anno scolastico da nord a sud i sindaci si interrogano su cosa fare. Ad alcuni istituti sono stati messi i sigilli, altrove è stata rinviata l'apertura delle scuole, in altri casi si stanno ancora cercando nuove sistemazioni. Perché una cosa è certa, e lo dicono i numeri e i rapporti, troppi problemi ancora hanno i nostri edifici scolastici. E da qui allora parte questa puntata di Storiacce. Sono dei moduli, diciamo, prefabbricati, i massimi standard, diciamo, di sicurezza. E anche a livello climatico sono anche tarati per certe temperature. Anche se il pulmino farà più fatica a raccogliere tutti i bimbi, perché ora ci si è messo pure il maltempo a provocare frane nelle aree del terremoto ad Amatrice, conferma il sindaco, le classi si apriranno regolarmente, ma la campanella suonerà nei moduli prefabbricati dopo che la scuola è venuta giù, come tutto il resto. Ma il dubbio della tenuta sismica non riguarda solo il cratere di quest'ultimo devastante sisma, ma quasi tutta la penisola. Purtroppo, essendo anche un patrimonio così ampio, 42.000 edifici, la situazione ancora non è sostanzialmente cambiata. Permangono lesioni strutturali ben evidenti, distacchi di intonaco, problemi, potremmo dire con una parola, di carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria. Abbiamo registrato in un anno 31 episodi di crolli di soffitti, solai, controsoffitti, tetti, che in alcuni casi hanno provocato non solo gravi danni ma feriti, e la maggior parte dei quali però avvenuti o di notte o quando i ragazzi non erano in aula. Quindi siamo stati fortunati, ma certamente abbiamo rischiato non poco. E dunque è davvero la fortuna a stabilire la vita o la morte dei nostri bimbi, proprio mentre dovrebbero essere nel luogo più sicuro in assoluto, la scuola. Se solo nell'ultimo anno, come avete sentito da Adriana Bizzarri, responsabile scuola di Cittadinanza Attiva, ci sono stati 31 crolli e senza contare il terremoto, non vogliamo neanche immaginare che cosa sarebbe successo se le scosse stavolta fossero avvenute con i ragazzi già in aula. Nelle zone sismiche, come sentiremo nel dettaglio più avanti direttamente dai dirigenti del Ministero, su 677 verifiche, più di 500 sono gli edifici risultati agibili. Ma dallo stretto di Messina all'Irpinia, al Friuli, le preoccupazioni riguardano quasi tutto il paese, e a ben vedere, visto che non c'è proprio da star sereni. Il prossimo 21 settembre Cittadinanza Attiva diffonderà il suo tradizionale rapporto, ma in queste anticipazioni raccolte per Storiacce da Maria Piera Ceci viene fuori un quadro davvero preoccupante. Uno dei punti più deboli degli edifici scolastici italiani costruiti prima degli anni 70 in particolare, che è proprio la parte legata al tetto. Le indagini diagnostiche che il MIUR ha previsto con la Buona Scuola vanno proprio in quella direzione. Peccato che 7.000 scuole hanno potuto accedere a questo tipo di indagine per sapere come stessero i tetti, ma le domande fossero il doppio, quasi 14.000. Quali sono le scuole più a rischio a livello di periodo di costruzione? Precedenti agli anni 70, ecco, sono proprio quelle che per materiale costruttivo e per tecniche utilizzate presentano proprio questo deficit intrinseco, quindi diciamo rappresentano il 55-60% dell'intero patrimonio, quindi è diciamo su queste che particolarmente si dovrebbe concentrare l'attenzione, oltre che sugli edifici scolastici situati almeno in zona 1 e zona 2, cioè in quelle a maggior livello di intensità sismica. Richiesta a gran voce da tantissimi anni, finalmente nel 2015 ha fatto il suo esordio l'anagrafe dell'edilizia scolastica. Ma che cosa ci dicono i dati contenuti nell'anagrafe? Purtroppo ad oggi non si può dire che sia attendibile quella banca dati, anche perché presenta ancora delle grandissime lacune. Per esempio non sono stati inseriti i dati relativi alle certificazioni. Tutte le regioni si impegnino a fornire dati aggiornati al MIUR, perché tutti noi possiamo renderci conto, prima di iscrivere un figlio a una scuola, in che condizioni sia quella scuola, quell'edificio. Questo vuol dire che molti edifici non hanno il certificato di agibilità statica, cioè non sappiamo se alla prima scossa o comunque in presenza di una scossa molto forte la scuola reggerebbe all'impatto. Quante sono le scuole che non hanno il certificato di agibilità statica? Secondo i nostri dati complessivi sarebbe il 35% delle scuole ad averlo, e questo è un dato già di per sé grave. Dopo San Giuliano di Puglia venne introdotta dalla Presidenza del Consiglio nel 2003 e che è diventata obbligo anche questo di legge, sarebbe necessario ora, visto anche che tutto il territorio italiano è sismico, avere l'altra, cioè come quell'edificio risponde sotto stress, diciamo, a seguito di scossa sismica. Ci sono regioni più virtuose e regioni meno. Quali sono quelle più virtuose e quali quelle meno? Molte delle regioni del nord sono sicuramente più avanti sul tema della messa in sicurezza delle scuole, e invece al sud purtroppo, soprattutto, e questa è la fonte di grande preoccupazione, nelle regioni ad elevata sismicità invece siamo molto indietro, e per cui la gran parte delle scuole non hanno queste certificazioni. L'età degli edifici, non di rado la scarsa manutenzione e talvolta la mancanza di soldi diventano un mix micidiale, anche per la sicurezza, un po' ovunque. Dopo il terremoto di San Giuliano di Puglia nel 2002 si disse mai più, si presero dei provvedimenti e si stabilirono regole per la sicurezza degli edifici, quelle mancate per la scuola Iovane, per cui sono stati condannati in via definitiva a 5 anni il progettista, due imprenditori, un dipendente comunale e l'allora sindaco Antonio Borrelli, che nel crollo aveva perso pure la figlia. Ma oggi, 14 anni dopo, mentre va avanti l'inchiesta sui cedimenti della scuola di Amatrice, nessuno si sente di poter assicurare davvero che non succeda più. Non vogliamo fare allarmismo, questo è certo, ma questo dicono i sindaci stessi, che a pochi giorni dalla riapertura delle scuole in molti casi stanno facendo controllare gli edifici. E non è forse un caso che la prima scuola chiusa per rischio sismico sia proprio a Messina, la città del grande sisma del 1908. E la Ettore Castronovo, in uno dei quartieri più popolosi della città, non è l'unico edificio a rischio, ma con le casse vuote anche la sicurezza è in bilico, ammette preoccupato l'assessore Guido Signorino. Siamo preoccupati non tanto per la chiusura della scuola, quanto per la consapevolezza che Messina ha un problema strutturale, diciamo, di adeguamento e di vetustà degli immobili pubblici e degli immobili scolastici in particolare, ma non soltanto, anche degli ospedali. La scuola Ettore Castronovo, di cui è stata disposta la chiusura, che si trova in uno dei quartieri anche più popolosi della città, le perizie dicono che appunto carotaggi ed esami del calcestruzzo hanno detto che questa scuola rappresenta, sto leggendo dalla perizia, un grosso rischio per tutti, anche senza terremoto. Messina è una, diciamo, una realtà molto a rischio, ovviamente, sia per la storia sia per la frequenza degli episodi sismici. Questa amministrazione ha ricevuto una condizione finanziaria particolarmente complessa della città, per cui è aperta una procedura di riequilibrio pluriennale e le risorse disponibili da bilancio sono particolarmente scarse. Un'altra scuola ancora ha avuto, diciamo, un'apertura condizionata, vedo la Primo Molino, e verifiche sono state fatte su altri 120 istituti. Questo significa che in qualche modo si pone un problema di sicurezza anche proprio degli istituti scolastici, anche indipendentemente dal timore di un terremoto forte come in passato, ahimè, è avvenuto già a Messina. Non c'è dubbio, per l'appunto nel master plan la città di Messina ha previsto un intervento di monitoraggio e programmazione di interventi e investimenti in ricerca e sviluppo per la prevenzione del rischio sismico, come anche per la messa in sicurezza delle scuole. Una città come Messina, con un grave problema di tipo finanziario, finisce con l'essere più a rischio anche la sicurezza dei bambini quando sono a scuola? Le ristrettezze di bilancio esistono, ma diciamo tra le priorità ci sono proprio gli interventi sulla sicurezza del territorio e anche in chiave strategica sulla sicurezza sismica. Dallo stretto di Messina su verso l'Irpinia e il Sannio e poi il Molise e ancora su verso Amatrice, Perugia, l'Emilia e il Friuli. La geografia dell'Italia è costellata di terremoti più o meno drammatici e visto che qui non siamo in Giappone, per mille ragioni, la riapertura delle scuole finisce ora per far paura. Dobbiamo allora davvero avere fiducia più nella nostra buona stella che nella tenuta degli istituti? È possibile? Eppure, così la pensa un sindaco di una città ad alto rischio sismico. E da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta Storiacce. Io devo pensare al futuro, no? Ecco, il futuro si chiama scuola, il futuro si chiama sgombrare le macerie per riaprire le arterie. Il futuro si chiama trovare una sistemazione degna ai miei cittadini fino a quando non tornano nelle loro abitazioni. Il futuro si chiama fare una giusta ricostruzione. Deve pensare al futuro, è vero, il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. Al futuro di uno dei paesi più distrutti nell'ultimo terremoto che ha ucciso 295 persone. Il futuro chiama, la vita deve andare avanti. Ma forse a volte anche il passato conta. E del passato invece sembriamo tutti dimenticarci troppo in fretta. Così, 14 anni dopo il terremoto di San Giuliano di Puglia, quando una scuola si sbriciolò sulle vite di 27 bambini e una maestra, e 7 anni dopo L'Aquila, quando il crollo della casa dello studente spense i progetti di 8 ragazzi, ancora un'altra scuola è venuta giù in questo paesino in provincia di Rieti. E ora, a ridosso della riapertura dell'anno scolastico, da nord a sud tutti i sindaci tornano ad aver paura e il ritorno in aula quest'anno è meno tranquillo, è meno scontato del solito. A Benevento, ad esempio, altra faccia del drammatico terremoto dell'80 che tra Irpinia e Sannio sterminò 3.000 persone, il sindaco Clemente Mastella non ha ancora comunicato la data di apertura delle scuole ed è pronto a rinviarla ancora senza le garanzie di tenuta sismica della commissione da lui istituita. Io spero per lunedì prossimo mi diano il responso per quanto riguarda la qualità e l'opportunità e la possibilità di essere presenti nelle scuole e viceversa, se laddove questa opportunità non ci fosse, laddove i rilievi che emergono sono amplissimi, mi pare evidente che io non posso aprire le scuole per la ragione, come lei ha ricordato, che siamo ai primi posti in graduatoria per quanto riguarda, ahimè, la sismicità nelle nostre zone, quindi questo impone un dovere, un obbligo morale. In Campania, se fosse per rilievi seri, dovremmo chiudere il 95% delle scuole, non hanno l'abitabilità e la possibilità, l'opportunità di reggere al sisma che magari da noi può arrivare con intensità più feroce. Voglio ricordare che il terremoto dell'Irpinia e del Sannio è stato quelli più feroci, e speriamo bene, insomma, da questo punto di vista. I sindaci che devono fare? Che dobbiamo fare? Ci date i soldi? Perché che faccio io per una scuola? Perché secondo me molte scuole sono da abbattere anziché andarle a rimodellare, perché assolutamente non è possibile. Costa meno rifare una scuola, fare una scuola nuova, che rifare le scuole vecchie, e qua sono quasi tutte quante scuole vecchie, questa è la verità. Fino a che non ha la garanzia da questa commissione sulla tenuta delle scuole, diciamo, non si decide sulla riapertura o meno di un istituto, giusto? Assolutamente sì, solo che vorrei al tempo stesso che, anziché molte chiacchiere che sento in giro, la regione che ha annunciato che farà un piano di intervento per quanto riguarda l'edilizia scolastica, il governo che ha annunciato provvedimenti, ma qua non si parte mai, questa è la verità. Cioè, vorrei che la regione convocasse gli amministratori, perché ci sono in Italia 24-25 milioni che sono in zone sismiche, altri no. Allora, se il governo, le singole regioni o quanto altro, anziché soltanto responsabilizzare a scaricabarile gli amministratori che sono ultimi a decidere, che tocca a loro aprire o aprire una scuola, però noi possiamo decidere in virtù di che? Se c'è l'avallo tecnico, e se i tecnici lavano le mani e dicono, ad esempio, tutte le scuole hanno chiuso, io che faccio? Chi interviene per me? E al governo si rivolgono direttamente anche i sindaci del centro Abruzzo, si rivolgono al Premier per chiedere una legge speciale per mettere in sicurezza le scuole esistenti e realizzarle nuove a completa tenuta sismica. Perché le scuole del nostro territorio, spiega il presidente della provincia dell'Aquila, sono vecchie e, pur essendo agibili, non sismicamente protette. Insomma, come dire, a norma per la burocrazia, ma non sicure in caso di terremoto. Per questo a Sulmona il sindaco aveva già annunciato che le scuole primarie sarebbero rimaste chiuse. L'attuale governo ha stanziato 7 miliardi e 400 milioni in tutto il paese per il patrimonio edilizio scolastico, calcola il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone. Ma le storie dei terremoti recenti sono anche storie di fondi a volte stanziati ma neanche riscossi dai comuni interessati, o storie di fondi utilizzati in altro modo, storie di paesi antichi e di lavori a volte non fatti bene, storie di speculazioni e non di rado di corruzioni, quelle che spesso sono emerse nelle inchieste sui sisma. Vedremo cosa verrà fuori dalle indagini su quest'ultimo terremoto, indagini che vanno in più direzioni secondo un quadro illustrato dal procuratore di Rieti, Giuseppe Saieva. In base alle note informative che arriveranno e agli spunti investigativi che riterremo di privilegiare, evidenziare, probabilmente si allargherà, non è escluso che poi possano essere fatti degli stralci, creati dei fascicoli nuovi, ma questo dipende dall'evoluzione dell'indagine, non lo possiamo dire oggi. Ma per garantire un graduale ritorno alla normalità in queste zone, una squadra del Ministero dell'Istruzione sta lavorando perché le scuole ricomincino più o meno regolarmente. Simona Montesarchio è la direttore generale dell'edilizia scolastica del MIUR, al microfono di Maria Piera Ceci. Noi facciamo delle verifiche relative praticamente all'idoneità delle strutture per l'avvio dell'anno scolastico. Quindi vuol dire che tutte le persone, quindi presidi, così come anche sindaci, eccetera, ci hanno, di questi 500, il dato che ha detto il ministro, ci hanno assicurato dell'avvio dell'anno scolastico. Però sui dati dell'inagibilità ci siamo basati su quelli delle verifiche della protezione civile. Mentre noi abbiamo verificato, come diceva il ministro, 677 edifici, ma verificate, come le dicevo prima, cioè sull'avvio dell'anno scolastico in questi edifici, dei 677 solo 450 hanno necessitato di una verifica da parte dei tecnici. Gli altri, i comuni, ci hanno assicurato che i tecnici comunali erano andati sul posto. Come erano messe queste scuole al di là della scossa sismica che è stata comunque pesante, quella del 24. E noi abbiamo comunque un patrimonio edilizio, cioè questo è noto anche dai dati dell'anagrafe, che non è proprio, è risalente anche un po' nel tempo. Noi in 2 anni abbiamo fatto, questo forse lo accennava anche il ministro, abbiamo investito solo sull'antisismica, quindi non sul resto, 240 milioni per 430 interventi, quindi in realtà gli investimenti ci sono. Sappiamo che tante scuole sono risalenti, quindi sono vecchie, sono degli anni 70, però praticamente stiamo intervenendo. Noi stiamo andando sul territorio comunque, cioè nel senso che abbiamo come task force del Ministero, ci sono persone soprattutto nei comuni più colpiti, dove in effetti ci sarà un avvio nei moduli provvisori, come per esempio a Matrice, oppure addirittura avranno l'inizio i primi 10 giorni intendo strutture, e quindi in questi casi stiamo proprio sul territorio anche come supporto psicologico, quindi alle famiglie, ma più che altro alle famiglie dei ragazzi e quindi agli studenti stessi. E nei prossimi giorni faremo anche delle un po' di formazione sul rischio sismico, perché così, come dire, educhiamo anche i ragazzi che saranno entrati proprio nelle scuole e magari avranno preso possesso delle loro stesse scuole, facendo anche prove di evacuazione, simulazioni e quant'altro. I terremoti nei secoli hanno determinato i paesaggi dei paesi, anche d'Italia, come è stato ricordato nei funerali di Stato per le vittime di Amatrice. E i terremoti spesso hanno cambiato la storia anche nel tempo senza tempo del mito. Linea allora alle nostre mitiche storiacce e a Giorgio Geranò, professore dell'Università di Trento e autore di saggi sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. La storia del Mediterraneo e dell'Europa è purtroppo una storia di terremoti. Il terremoto di Lisbona, 1 novembre 1755, spinse molti uomini a dubitare della provvidenza divina e ispirò a Voltaire la sua feroce satira contro chi diceva che viviamo nel migliore dei mondi possibili. Non ne abbiamo le cronache in questo caso, ma lo stesso sgomento dovette attraversare le menti e i cuori degli uomini 3 millenni e mezzo fa, quando il vulcano dell'isola greca di Santorino esplose, provocando un sisma che sconvolse l'intero Egeo. Per i greci antichi e per gli uomini di Santorino, il signore dei terremoti era il dio Poseidone, il Nettuno dei romani. Noi ce l'immaginiamo soprattutto come re del mare, ma per i greci era il dio di tutti gli abissi, anche di quelli sotterranei. Perché il mondo non è solo la sua superficie visibile, vi sono profondità di mare e di terra, luoghi insondabili e oscuri che sfuggono alla vista eppure accompagnano ogni nostro passo. Ci sono forze elementari sempre pronte a ridestarsi e a sconvolgere il nostro pianeta e la nostra vita. Ecco, Poseidone, che i greci chiamavano appunto Enosigeo, cioè scuotitore della terra, era il simbolo di queste forze che a volte affiorano tumultuosamente in superficie e scatenano i terremoti e le tempeste del mare. Noi moderni possiamo sorridere di quest'idea che lega i fenomeni naturali all'opera di una divinità, ma guardando alla distruzione e alla morte provocate dal terremoto, il pensiero che un dio o un demone malvagio giochi crudelmente con le nostre vite non è poi così assurdo come sembra. E voi allora siete tranquilli mandando a scuola i vostri figli? Se vi va, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce o su Twitter all'account Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, a presto!